Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno e bentornati. Buona settimana a voi, buona Eccoci. Settimana Deborah. Buongiorno. Ti vedo bella, fresca, riposata e anche un po' abbronzata. Allora, ta-ta. Ok per la terza sulle prime due, però dai, se non ci lamentiamo. Però un po' di colore l'hai preso. Un po' di colore l'ho preso, devo dire che quello di giugno poi, anche se lo guardi solamente a distanza, ti attacca. Mi chiedevo se si vede dalla nostra diretta web. L'abbronzatura di Deborah. Speriamo di no, perché non mi sono truccata, quindi si vede solo l'abbronzatura, ma poi si vedono pure le occhiaie del poco sonno. Allora, però fa niente. Se qualcuno si è abbronzato, anche poco, oppure se qualcuno si è scottato, o se qualcuno dopo il weekend al sole si è visto comparire sul labbro una pustolina. Eccola. La chiamiamo, diciamolo, chiamiamolo, è fiorito l'herpes. Fermi lì, perché abbiamo lanciato il nostro SOS alla dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa e presidente di Derming, che è l'istituto di ricerca clinica e dermatologica, che è pronta a darci una mano. E sempre a proposito di sole e dintorni, parleremo poi di quando il caldo ci dà alla testa, se vi sentite stanchi, senza forze, abbattuti, affaticati, irritabili, se vi gira un po' la testa o vi sentite la testa vuota. Io pensavo parlassi di altri giramenti. Produce anche il sole, pure quello. Certo. 800 24 00 24, un numero verde, Deborah, che possiamo fare anche per intervenire sui temi, guarda, di denari. Esattamente. Allora, nella seconda parte, dalle 11 in avanti, faremo un focus su questa questione che è stata che è finita molto alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni, perché pare che molte professionalità non si trovino, molti lavori estivi, molte agenzie, molte aziende, stabilimenti balneari sono a caccia di professionalità che non trovano, quindi faremo un punto della situazione per capire se chi ha bisogno di lavorare è in ritardo per dare la sua disponibilità. Prima però, nella rassegna stampa, fra una decina di minuti circa, faremo anche un punto su queste giornate caldissime per due grandi banche italiane. Ufficialmente fallite, possiamo dirlo così, alle 10.45 parleremo con Marco Ferrando di Pop Vicenza e Veneto Banca per capire che cosa è successo nel weekend e cosa succederà adesso per correntisti, risparmiatori e quant'altro. Tintarella di luna. Allora, lo abbiamo anticipato, oggi apriamo la settimana lanciando un SOS alla dottoressa Adele Sparavigna, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo bisogno di consigli e suggerimenti su cosa fare, quando e se compare l'herpes. Intanto 800 24 00 24, se anche voi state facendo i conti con l'herpes e volete sapere se è possibile prevenire o se c'è una strategia per evitarlo. Intanto, dottoressa Sparavigna, perché il sole risveglia l'herpes? Perché il sole deprime il sistema immunitario e quindi avendo noi il virus già all'interno del nostro organismo, lì dormiente, che non aspetta altro che le nostre difese si abbassino, lo rinvigoriamo. Eccola lì. Allora, che cosa si deve fare, dottoressa Sparavigna, per evitare allora che i baci del sole lascino il segno sulle nostre labbra? Servono le protezioni, le creme, gli stick, quelli... cosa possiamo fare? Certamente, certamente. Se abbiamo sofferto in passato di herpes solare, quindi in seguito all'esposizione al sole, conviene essere sempre molto premuniti, quindi per le labbra utilizzare degli stick solari a protezione elevatissima e ovviamente evitare le esposizioni maldestre, quelle nelle ore centrali della giornata. Quelle proprio non ce le passate mai, no, ma no. Basta però andare al mare per vedere che le spiagge anche nelle ore centrali della giornata sono piene, perché noi abbiamo l'impressione che esponendoci tra mezzogiorno e le due, magari rischiamo, però poi il colore si vivacizza un po', si accende, dottoressa Sparavigna. Bisognerebbe godere la spiaggia all'ombra durante quelle ore, perché effettivamente sono ore interessanti dal punto di vista sociale, si sta bene a quell'ora, però ecco, esponiamoci invece nelle altre fasce orarie che va molto, molto meglio per la nostra pelle. Dottoressa, lei ha detto perché il virus si risveglia. Ecco, ci aiuti a capire, cioè si risveglia e poi torna a nascondersi, ad addormentarsi, ma comunque il virus resta. È così? Eh sì, ma se ci pensiamo bene, la parola herpes deriva dal greco, significa strisciante. Quindi è proprio un verme questo herpes. Sì, è proprio la strategia di questo virus. Lui ha una sorta di scudo che è una proteina che lo difende dai meccanismi immunitari, quindi andando a localizzarsi nei gangli nervosi e con la sua proteina riesce a permanere per sempre. Una volta che noi ci siamo infettati con l'herpes, questo permarrà sempre nel nostro organismo. Fino ad ora non disponiamo di farmaci per evitare che ciò avvenga. Quindi se ci sceglie è per sempre, almeno l'herpes è fedele. Possiamo metterla così, per vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, dottoressa Sparavigna. Allora arriva intanto so che i nostri ascoltatori si stanno mettendo in contatto con noi, adesso dalla regia li chiamiamo, 800 24 00 24, ma anche 349 238 6666, un numero che potete utilizzare per mandarci messaggi o WhatsApp. È proprio su WhatsApp arriva la richiesta di Aldo, che ci scrive: se il sole riattiva anche il fuoco di Sant'Antonio, che è della famiglia dell'herpes, comunque, ecco, dottoressa Sparavigna. Non è lo stesso herpes. Quello è l'herpes varicella zoster viene nelle persone che hanno avuto un precedente contatto con questo virus, quindi le persone che hanno avuto la varicella. Di solito è difficile che l'esposizione solare sia in grado di slatentizzare uno zoster, perché lì abbiamo bisogno proprio di situazioni di defedamento organico più importanti, però potrebbe capitare. Comunque, dottore, allora abbiamo Stefano dalla provincia di Fermo. Debora. Ah, eccoci. Eccolo dai, qua. Dalle Marche con furore e con amore. Buongiorno. No. Niente, io le chiedevo, che sono almeno da 20 anni che ho questo problema e naturalmente da come sto ascoltando le soluzioni non ci sono. Faccio una premessa: all'età di 25 anni ho preso il classico sfogo di Sant'Antonio o herpes zoster, come si chiama. Lo chiamiamo di Sant'Antonio e ci capiamo. Sì, con grossi dolori, fitte nella parte posteriore, diciamo, della schiena. Sì, è proprio a cintura, ecco. Sì, sì. Adesso ripetutamente, anche con frequenza mensile, ogni 15 giorni mi si riattiva il dolore. Riattiva il dolore, ecco. Ma con tutta diciamo le bollicine e tutto quanto. Proprio nella parte dorsale della schiena. Quindi si riattiva. Stefano, sì. Corro, perché poi ci sono anche delle notizie che la dottoressa Sparavigna può darci, ma intanto, dottoressa, Stefano ci racconta una situazione che è abbastanza frequente, perché lei ha detto anche l'herpes, anche in questo caso quello che produce, proprio quello che noi chiamiamo responsabile del fuoco di Sant'Antonio, non va via, si riattiva, ed è il caso di Stefano, che ha delle ricadute, mi passi il termine, molto ravvicinate. Che cosa può fare? Questo è meno frequente per il fuoco di Sant'Antonio. Io penso che vada un attimino indagato a fondo il suo sistema immunitario con degli esami specifici, perché mi piace meno, mentre l'herpes simplex è più comune che si riattivi, uno zoster che si riattiva continuamente va indagato più a fondo. Allora, però, dottoressa Sparavigna, lei all'herpes ha dichiarato guerra per ragioni professionali ma anche personali. Sì, ecco. Insomma, non si può avere questa fioritura sulle labbra, specialmente quando si hanno dei pazienti davanti, quindi era una cosa che mi dava molto molto fastidio, e quindi ho detto: voglio studiarti a fondo perché ti devo colpire nel segno. E quindi penso... è un rapporto di amore inteso come amore della professione e odio per via del fastidio che le reca. Quindi infatti, che mi recava. Ecco. Perché sono almeno 2 anni e mezzo che non mi capita più. Ritengo di aver scoperto un metodo assolutamente naturale e infallibile che serve per tenerlo a bada, quantomeno, quindi per non favorire la fuoriuscita dell'herpes labiale. Senza utilizzare pomate, cremine, farmaci e quant'altro. Nulla. Direi un rimedio a portata di mano. Lei su questo ha scritto proprio un trattatello, un ebook, di cui io ho scritto la prefazione, mi sono molto onorata. Dottoressa Sparavigna si può trovare naturalmente come un ebook, si trova online. Basta scrivere herpes labiale Sparavigna su Google e viene fuori. E poi farà una ricerca proprio. Sì, perché diciamo che il metodo si è rivelato infallibile per me, per i miei pazienti che mi stanno seguendo, però ovviamente per poter pubblicare una scoperta di questo tipo io ho bisogno di una casistica molto più vasta, e quindi in questo chiedo aiuto ai miei lettori che si mettano in contatto con me attraverso questo questionario e poi saranno ricontattati nel tempo proprio per verificare la frequenza e se effettivamente il metodo ha funzionato su tutte le persone che mi hanno seguito. Quindi cercasi labbra con herpes, ecco, non per essere baciate, ma per partecipare a questo studio, per dimostrare l'efficacia di un rimedio molto naturale che la dottoressa Sparavigna, dichiarando guerra all'herpes, ha trovato. Grazie dottoressa Sparavigna per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi e grazie della prefazione, perché è divertentissima e serissima al tempo stesso. Grazie, e noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, non con l'herpes Deborah, ma con le banche venete, ecco, perché già qualche ascoltatore si lamenta un po' dei toni con cui abbiamo parlato, adesso preciseremo anche i contorni, vabbè. Da del filo da torcere, proprio come l'herpes, sono delle cose che bruciano. A tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, questa volta per la rassegna stampa di denari. La borsa parte molto bene questa settimana, Milano più un 35%, sulle FTSE MIB sono ben impostate anche le altre piazze europee in una settimana, appunto in un avvio di settimana che vedrà molti appuntamenti macroeconomici, fra cui nuovi interventi di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Ma naturalmente noi guardiamo quello che succede in Italia, questa soluzione di sistema trovata per il salvataggio di Pop Vicenza e Veneto Banca, due banche che praticamente con il decreto legge che è stato varato nel weekend dal Consiglio dei Ministri e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale terminano ufficialmente la loro storia. Questo provvedimento del governo sancisce la loro liquidazione coatta amministrativa e una serie di attività e passività vengono cedute a Banca Intesa, come sapete, per la cifra simbolica appunto di un euro. Da stamattina quindi i 500 sportelli di Pop Vicenza e 400 di Veneto Banca hanno riaperto sotto le insegne della banca guidata da Carlo Messina, cioè Intesa San Paolo. Ma quello che interessa capire noi stamattina è cosa succede per risparmiatori, correntisti, obbligazionisti e azionisti. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto va segnalato anche che Fabrizio Viola è stato nominato dalla Banca d'Italia commissario liquidatore per le due banche. Praticamente con il provvedimento che, come dicevamo, mette sotto liquidazione coatta amministrativa delle due banche, vengono salvaguardate l'occupazione delle persone che ci lavorano, i risparmi affidati a circa 2 milioni di famiglie e l'attività di circa 200.000 imprese finanziarie. Ma Marco, cominciando con chi vivrà invece la situazione più problematica, per gli azionisti tutto l'investimento va praticamente in fumo. Il destino in certo senso era segnato già da tempo, nel senso che gli azionisti, che peraltro ricordiamo si sono visti praticamente già azzerato nei fatti l'investimento negli ultimi mesi, quando progressivamente il valore dell'azione è stato svalutato, con questa operazione di liquidazione di fatto perdono definitivamente il loro investimento. Quindi vale per i piccoli azionisti, che ormai valevano lo 0, del capitale sia di Veneto Banca che di Popolare Vicenza, ma vale anche per Atlante, che non dimentichiamo aveva investito 3,5 miliardi circa sulle due banche nel tentativo di rimetterle in piedi, che poi, come abbiamo visto, non è andato in porto. Obbligazionisti invece, qual è la loro situazione, che tipo di differenziazioni dobbiamo fare, perché naturalmente ce ne sono tanti e con caratteristiche diverse, con priorità anche nel rientro dell'investimento differenti. Partiamo dagli obbligazionisti più a rischio, cioè gli obbligazionisti subordinati, formalmente l'investimento è perso, nel senso che le obbligazioni vengono convertite in azioni delle banche, quindi vanno in liquidazione, se non che, e questo è importante per gli obbligazionisti retail, quindi parliamo dei risparmiatori che hanno acquistato titoli subordinati allo sportello, parliamo di circa 300 milioni di valore, le stime insomma sono oscillanti, comunque un massimo di 300 milioni, verranno rimborsati all'80% dallo Stato e un altro 20%, quello che manca, da Intesa San Paolo, qualora dimostrino che di fatto la vendita è stata fraudolenta, e cioè che non è stato un acquisto effettuato negli ultimi tempi proprio speculando, certo, su questo salvataggio, ma un acquisto in là nel tempo in buona fede. Di fatto una procedura analoga a quella che verrà seguita per Monte dei Paschi, sempre che vada in porto il piano di cui stiamo scrivendo ormai da settimane, ma che in teoria dovrebbe andare in porto. In questo caso con la ricapitalizzazione precauzionale, però. Esatto, esattamente. Analogamente, qui qualche differenza in più in realtà c'è a quanto accaduto con gli obbligazionisti, sempre retail, delle quattro banche salvate un anno e mezzo fa, quindi Etruria e le altre. Certo, allora, visti i criteri con cui verranno rimborsati gli obbligazionisti di Pop Vicenza e Veneto Banca, è chiaro che questa operazione di ristoro, indennizzo e rimborso non avverrà nel giro di poche settimane, Marco, ma appunto proprio per il fatto che tu spiegavi che dovranno essere individuati i criteri con cui queste persone, questi risparmiatori, hanno sottoscritto queste obbligazioni, probabilmente ne parleremo ancora per diversi mesi, immagino. O tu pensi che i criteri verranno individuati a breve? No, direi che non c'è da essere molto ottimisti al riguardo. L'obiettivo qui sarebbe di garantire una sorta di automatismo, però gli automatismi rischiano di generare anche dei trattamenti uniformi che non sono meritati, perché come dicevamo c'è sicuramente chi ha speculato perché lo fa per mestiere, quindi è bene tenerli separati, e quindi verosimilmente ci vorranno mesi per questo tipo di rimborso. Viene da dire meglio che niente, nel senso che comunque il rischio in caso di bail-in, anche di uno degli epiloghi meno cruenti della risoluzione, era di comunque veder persa gran parte della somma investita. Allora, no, c'era un ascoltatore che stava dicendo: date voce anche alle voci contrarie. Alle voci contrarie di che cosa? Di un procedimento che è stato definito dallo Stato con un provvedimento nel weekend. Detto questo, c'è un ascoltatore invece, Marco, che ci chiede, intanto che Nicoletta gli sfugge di mano il tablet perché stava provando appunto a farmi leggere i messaggi di WhatsApp che stanno già arrivando da parte degli ascoltatori. Intanto vi dico che naturalmente su questa vicenda, visto che abbiamo i dettagli delle notizie arrivate nel weekend, ma avremo modo di tornarci con degli approfondimenti appunto sicuramente più lunghi. Un ascoltatore, Marco, chiede: io ho perso tutto con l'investimento in azioni della Pop Vicenza, ma dice, con il mutuo come la mettiamo? Il mutuo passa praticamente ad Intesa San Paolo, e da oggi in avanti, da questo mese in avanti, si rimborsa d'Intesa praticamente. Sì, è così. È capitato a milioni di risparmiatori in questi anni che hanno visto transitare il proprio sportello magari da una banca all'altra. Quindi è un'operazione di cui si vedrà gli effetti nei prossimi giorni, quando la banca prenderà contatto con i loro clienti, però non cambia nulla. Per cui io, cliente di Veneto Banca, che ho di Popolare Vicenza, che ho i miei risparmi, conto titoli o il mutuo, di fatto da stamattina divento un cliente di Intesa San Paolo, che nei prossimi giorni mi contatterà per darmi gli estremi, i nuovi estremi del mio conto corrente, e per dirmi qual è la nuova filiale di riferimento, probabilmente destinata a cambiare. Non dimentichiamo che delle 1000 filiali in questione più della metà verranno chiuse, però condizioni nonché anche proprio caratteristiche del rapporto in essere non cambieranno. Marco, ai correntisti di queste due banche non succede nulla, nel senso che succede quello che succede esattamente a chi ha il mutuo con queste due banche, no? Diventa da domani, da oggi anzi, cliente di Intesa San Paolo, ma i risparmi, i depositi sul conto corrente sono salvaguardati integralmente? Assolutamente sì, per cui diciamo all'atto pratico non cambia nulla. Cambierà il referente bancario probabilmente, ma dal punto di vista della quantità, delle condizioni, dei tassi non cambia nulla, lo diciamo, lo sottolineiamo, è un elemento importante per tranquillizzare i risparmiatori, ma anche che fa capire un po' la razza di questo intervento, su cui sicuramente si discuterà sui costi per lo Stato e gli eventuali benefici a Intesa, però la priorità era difendere l'operatività. Nel senso che il rischio, se no, vista anche le dichiarazioni della BCE di venerdì che dichiarava le banche a rischio fallimento, era una situazione molto più complicata, quindi molto più incertezza per i 2 milioni di clienti che non sono pochi. Grazie Marco per essere stato con noi, buon lavoro, so che hai scritto tantissimo nel weekend su questo importante provvedimento del governo arrivato nelle ultime ore, noi ti lasciamo, torneremo su questo tema sicuramente presto, intanto ne approfitto per lanciare invece il tema che affronteremo dalle 11 perché parliamo di lavori estivi. Per tanti un'opportunità naturalmente per guadagnare qualcosina, soprattutto per gli studenti, per tanti invece magari l'opportunità per cercare un lavoro che può essere duraturo, magari a tempo indeterminato. L'estate sicuramente può essere una buona opportunità per trovare lavoro, un'occasione anche per trasformare esperienze temporanee in una posizione più stabile. Noi ne abbiamo parlato, prima di presentarvi gli altri due ospiti che ci faranno compagnia dalle 11.10 in avanti, con Francesca Contardi, Managing Director di Easy Hunters, che si è anche soffermata sui settori in cui si concentrano le offerte di lavoro in questo periodo. Sentite intanto questo breve contributo, tutto il resto è sulle pagine di Cuore e Denari sul sito di Radio 24. Contrariamente a quello che si pensa di solito, l'estate è comunque un momento in cui ci sono delle occasioni per poter trasformare delle opportunità a volte temporanee in opportunità invece molto più stabili. Quindi il periodo estivo per Easy Hunter è uno strumento, quindi è un momento in quale si può trovare il modo per farsi conoscere dalle aziende. Le opportunità che normalmente si aprono di solito sono concentrate o comunque girano intorno all'arrivo dei turisti e quindi ai periodi di villeggiatura. Stiamo quindi parlando di opportunità, per esempio, come gli addetti al front office o al ricevimento degli alberghi. Altre occasioni che sicuramente sono piuttosto interessanti sono per esempio le sostituzioni dei periodi estivi. Prendiamo ad esempio le banche. Le banche nei luoghi di villeggiatura d'estate sono comunque estremamente frequentate. In quel caso chi ha lavorato tutto l'anno all'interno della banca andrà in vacanza e quindi dovrà essere sostituito da del personale, quindi per tempo determinato. Cuore e denari. Benvenuti in Baywatch. La nostra squadra è l'elite dell'elite. Siamo il cuore e l'anima di questa spiaggia. Allora, Baywatch, un film di quest'anno diretto da Seth Gordon, è la trasposizione cinematografica, Nicoletta te la ricorderai, la serie dell'omonima serie televisiva statunitense che andava in onda tanti anni fa con quella super Pamela Anderson, insomma era tutto un vedere, era molto apprezzata. Allora non si tratterà sicuramente di entrare a far parte della squadra di Baywatch, ma cioè Pamela non la incontrano. No, direi che non. Ecco, magari se una l'obiettivo è questo, se l'obiettivo è questo, ecco, cancellatelo dalla testa. Però sono tanti giovani bagnini che magari potranno cimentarsi sulle spiagge italiane quest'estate, no? Il bagnino è l'emblema dei lavori estivi. In realtà sono tante altre le occupazioni che si possono cercare in questa stagione. Allora, torniamo sul tema del lavoro oggi per la parte di denari, perché a parte tutto il ragionamento che si potrebbe fare sui lavori stagionali e le opportunità professionali che si cercano in questo periodo, periodo classico per i lavoretti in cui si impiegano gli studenti, in realtà a noi ha suscitato una certa curiosità questo allarme, mettiamolo naturalmente tra virgolette, ma per qualcuno lo è, che è stato lanciato da un'agenzia per il lavoro che ha voluto segnalare come molte aziende in tutta Italia stiano registrando forti difficoltà a reperire personale qualificato. E succede non solo nelle più rinomate località balneari della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, ma anche in Piemonte, in Liguria, in Veneto e Lombardia. Stabilimenti balneari e alberghi in difficoltà nel reperire personale di ogni tipo. Così abbiamo pensato di indagare questo fenomeno e soprattutto di segnalarlo, soprattutto a chi invece magari con queste occasioni di lavoro non si è imbattuto e le sta cercando disperatamente. Allora, buongiorno e grazie per essere con noi a Paolo Ferrario, amministratore delegato e presidente dell'Agenzia per il Lavoro eWork. Buongiorno Ferrario. Buongiorno. Si è parlato moltissimo di voi in questi giorni perché questo vostro comunicato stampa naturalmente ha destato non solo il nostro interesse ma naturalmente quello anche di molti altri giornali. Io nel weekend ero a casa nelle Marche con mia mamma e proprio l'altro giorno vedevo un servizio su un telegiornale appunto nazionale e i giornalisti sono andati proprio in Sardegna a fare una perlustrazione appunto fra i ristoratori e albergatori per capire di che tipo di professionalità avessero bisogno e per quale motivo sia stato lanciato appunto un vero e proprio allarme. Insieme a Paolo Ferrario c'è con noi Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Open Job Metis. Buongiorno Piccolo e benvenuta anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A tutti. Allora, chiaramente microfoni aperti ai nostri ascoltatori. Certo, 800 24 00 24. Ecco, diteci un po' se l'estate. Avete presentato la vostra candidatura magari ad un albergo, ad uno stabilimento balneare e non siete stati accettati perché magari si lamentavano delle competenze non adeguate che avete proposto. Allora, Ferrario, a quanto pare ci sarebbero in Italia molti operatori turistici in difficoltà per la carenza di personale per questa estate ormai ufficialmente partita. Ci spieghi meglio di chi avete colto il grido di dolore? È un fenomeno diffuso ovunque o riguarda certe specificità? No, allora direi che è un fenomeno abbastanza diffuso. Ovviamente non è un metro che applichiamo solo noi come singola agenzia, ma è un fattore ormai diffuso in tutto il mercato. Senta Ferrario, gentilmente, non so se è lontano dalla cornetta del telefono, se si può avvicinare un pochino, se ha un auricolare, se fosse direttamente a contatto con la cornetta per noi è meglio. Magari è un problema nostro, però facciamo una verifica, grazie. Va bene, ci proviamo, ecco. Mi avvicino. Allora, stavo dicendo che è un problema molto diffuso, sia per territorialità che per tipologia di professioni, diciamo così, mancanti. Penso che tutti noi in questo periodo estivo possiamo vedere cartelli davanti a ristoranti, in località di villeggiatura o di hotel con cercasi camerieri o altro. Il problema è molto semplice, nel senso che spesso e volentieri in questo settore gli operatori cercano in autonomia i lavoratori e spesso e volentieri non sanno bene nemmeno loro cosa stanno cercando. Nel senso che non basta scrivere cercasi cameriere, bisognerebbe specificare che cosa si cerca. E certo, se lo si vuole che sappia il tedesco, lo spagnolo invece dell'inglese, del francese, eccetera. Quindi diciamo posizioni troppo generiche. Quindi no, questa è una buona, come dire, notizia quella che ci dà, perché già eravamo pronti a giudicare un po' la platea delle persone che cercano lavoro e che magari non si accontentano, che ne so, delle proposte, degli stipendi. Invece qualche volta anche dalla parte datoriale c'è un po' di indeterminatezza che alimenta anche questa difficoltà di far incontrare la domanda e dall'offerta. Appunto, Ferrario, la lascio concludere. Sì, esattamente, credo che come in tutto non esista una colpa a senso unico, nel senso che spesso e volentieri manca un po' di precisione, dall'altra parte manca un po' di organizzazione, un po' di formazione, quindi diciamo che è un mix di lacune. Questa è la ragione per cui credo le agenzie in genere si trovino oggi come operatore molto attivo in questo mercato a cercare di colmarle queste lacune, a formare lavoratori e a trovare il giusto bisogno per le aziende clienti. Allora, andiamo a qualche aspetto concreto di questa nostra chiacchierata, dottor Ferrario. Ci segnali le posizioni aperte e come è possibile candidarsi, quelle che naturalmente avete riscontrato voi nell'ambito, appunto, del mercato del lavoro in questo momento. Certo, come è possibile candidarsi lo diciamo subito, basta andare sul nostro sito internet www.iworkspa.it. Qui ci saranno tutte le offerte di lavoro che ovviamente sono molto dinamiche, nel senso che il mercato è molto fervido in questo momento, la stagione è già iniziata, quindi ovvio che alcune offerte le troviamo oggi, non le troviamo domani, ma ne troveremo di nuove molto simili. Come dicevo prima, la territorialità è molto diffusa, andiamo dalla Sardegna, la Sicilia, la Calabria, per arrivare poi alle regioni del nord, alla Lombardia, al Piemonte e la Liguria o il Veneto. Ci sono offerte che riguardano mansioni molto diverse, stiamo parlando al sud soprattutto di ricevimenti, di addetti e capi ricevimento all'interno di resort, quindi villaggi turistici, di addetti al booking e di cuochi. In questo caso, va precisato, stiamo parlando di lavori quasi prettamente stagionali, quindi che garantiscono quei classici 2 o 3 mesi di occupazione. Dall'altra parte spesso però garantiscono anche l'alloggio, quindi un'esperienza molto bella per dei giovani. Sì, certo, dipende se le vogliono cogliere naturalmente queste opportunità. Certo. Ma che proposte contrattuali ci sono, dottor Ferrario? Può essere questo il tema, le offerte dal punto di vista economico, adesso a parte il fatto che possono ospitare, che i resort sono molto belli, ma naturalmente poi questi ragazzi devono lavorare e non sempre si tratta di magari star lì a disposizione delle strutture ricettive 8 ore al giorno, chiaramente magari l'impegno in piena estate è anche un po' più ampio, no? Le offerte non sono attraenti, vorrei sentire anche gli ascoltatori all'800 24 00 24 su questo tema, che tipo di contratti offrono? Ma allora, l'attrattività dell'offerta ovviamente è molto soggettiva, però quello che possiamo dire è che con le offerte tramite agenzia l'inquadramento è comunque quello da contratto nazionale del lavoro, quindi senza tirocini, stagio o altro, ma con un contratto di somministrazione di lavoro. L'inquadramento varia ovviamente dal terzo al quarto quinto livello, dipende ovviamente da un po' di esperienza della persona o dalla difficoltà di reperimento di quella mansione. Però possiamo dare un'idea, parliamo di 1.200-1.600 euro lordi mensili, che certo non sono magari lo stipendio in cui una persona sogna per la vita, ma che sono già un inizio per un'esperienza lavorativa. Vabbè, insomma, certo che a 20-25 anni non ci si può sicuramente lamentare, ma magari anche un padre di famiglia che non lavora da un po', chissà che invece non sia più che contento appunto di ricevere una remunerazione di questo tipo. Adesso ci torniamo. Volevo andare a Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Open Job Metis, che pure vive la sua fase, come dire, stagionale di proposte professionali. Dottoressa Piccolo, con le medesime difficoltà, tra l'altro in un momento anche molto importante per la vostra attività, ma anche quella del suo collega, perché quest'anno si celebrano i 20 anni del lavoro in somministrazione, 20 anni di cambiamenti davvero incredibili nel bene e nel male per il mercato del lavoro, e voi so che celebrate con un convegno. Sì, assolutamente. Proprio domani ci sarà a Roma questo convegno promosso da Ambrosetti e da Assosom, che è una delle due associazioni di categoria del mondo delle agenzie per il lavoro, proprio per celebrare questi grandissimi cambiamenti, come ha detto giustamente lei. Chissà che non si parli anche, esatto, di lavoro stagionale, andando nel dettaglio delle opportunità professionali sotto il solleone, dottoressa Piccolo. Dove e come? Tantissime, come giustamente sottolineava il collega, l'Italia è lunga, stretta, e ci sono veramente tantissime opportunità, soprattutto nel mondo del turismo. Le mansioni sono quelle che citava il collega, per cui dalla receptionist al ricevimento, all'assistente nella parte di stabilimenti balneari, camerieri, tutto il mondo della ristorazione e dell'hotelleria evidentemente la fa da padrona, perché speriamo che insomma ci sia tanto, che il turismo prenda piede in modo significativo, che tanti turisti vengano in Italia. La difficoltà sta nel trovare persone che abbiano sostanzialmente due competenze, perché poi è un po' questo che cerchiamo, al di là dell'esperienza nel settore, che possiamo comunque aiutare a fare e a costruire con la formazione. Uno è la conoscenza della lingua inglese, bisogna arrangiarsi con l'inglese almeno parlato, perché quando arrivano turisti stranieri bisogna saperli accogliere, indipendentemente dalla mansione che si svolge, quando si è a contatto col pubblico, due parole bisogna metterle insieme e qualcosa bisogna capire. Quindi ancora una volta è importante l'inglese, ripeto, non scritto, non deve essere tecnico, non deve essere perfetto, ma parlato sì, insomma dobbiamo farci capire e capire quello che ci chiede il cliente. E poi un minimo di flessibilità oraria, lo avete accennato prima, quando si va via per la stagione in qualche modo non si lavora proprio le 8 ore standard da contratto, ma si fa sempre qualche ora in più, quindi sono pochi mesi ma ben concentrati. La somministrazione dà l'opportunità di fare quelli che quando io ero all'università si chiamavano lavoretti, non in modo più o meno grigio-nero, ma tutelati, quindi in modo regolare, legale. Esatto. Quindi si ha un contratto. Che non è il concetto, esatto, che qualche volta un po' anche al mondo sindacale piace, come dire, piace insistere su questo aspetto, che si tratti di lavoro precario. In realtà molto spesso è anche l'occasione, ce lo diceva prima anche l'altra vostra collega che abbiamo interpellato telefonicamente con un contributo appunto telefonico, Francesca Contardi di Easy Hunters, e molto spesso in realtà poi queste opportunità si trasformano in posti di lavoro stabili e contratti a tempo indeterminato, per cui insomma le strutture ricettive in questa fase della nostra storia turistica 2017, ma forse già sta succedendo da qualche anno, non trovano personale perché non cercano più il cameriere tuttofare di una volta, ma specialisti nel settore preparati con la conoscenza di una lingua, e quindi si è alzata l'asticella della professionalità, e da qui nascono le difficoltà dell'incontro fra domanda e offerta. Sentiamo che ne pensano i nostri ascoltatori. Da chi andiamo, Nicoletta? Allora, vorrei andare da Savino. Volentieri. E poi c'è anche Alessandro da Roma. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook. Ah, è vero, non perché abbiamo l'ospite in studio, ma ci siamo io e Deborah. Esatto. E poi, quindi e voglio dire, tutte e due in gonna, praticamente un miracolo che è non vero. Si ripeterà mai più fino al 2018. Savino, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie. Mi sentite? Sto camminando? Bravo, sì, la sentiamo sì. Bene. A caldo, Savino? Sì, fa caldo, però ecco, potabile. Bravo, perché poi parleremo anche di caldo sulla... Esatto. sul nostro, sulla nostra testa. Savino. Buongiorno, io sono un padre 67enne, ho un figlio chef a Londra, volevo parlare indirettamente di questo problema. Il problema stagionale per i ragazzi c'è sempre stato. Magari sono sottopagati, parlo di, per mio figlio o per chi per esso nel settore ristorazione sicuramente non si può pensare di fare 8 ore. Mio figlio adesso lavora anche 18 ore. Però faccio un esempio di un'esperienza, mio figlio ne ha 34, di tanti anni fa quando faceva la scuola alberghiera, il primo anno finita la scuola, fece una stagione a Tropea dove prese 800 euro. L'anno dopo il suo professore, non mi ricordo di cosa, dice guarda io faccio la stagione a St. Moritz, tu puoi venire in Svizzera a lavorare per 25 giorni. Io in casa ho la fotocopia a colori dell'assegno, 2.375 franchi per 25 giorni di lavoro. Sicuramente. Allora, cioè, tra Italia, cioè, ci sono insomma tante situazioni. Vabbè, Savino, detto questo, ma il tema è che da un anno all'altro, però, suo figlio si è fatto conoscere, ha potuto portare in dote un'esperienza e quindi poi si cresce. È chiaro che il primo lavoro in assoluto, soprattutto magari in questi ambiti, non può essere stra remunerato, ma questo capita in ogni settore. Paolo Ferrario, che pensa di questa esperienza che il nostro ascoltatore ha voluto condividere con noi? Sì, è sicuramente un'esperienza, diciamo così, nota per i giovani, soprattutto qualche anno fa. Dopodiché bisogna anche ricordare cosa costa un caffè a St. Moritz rispetto a quanto costa un caffè qua in Italia. Quindi ovviamente tutto va molto confrontato, diciamo così, alle realtà in cui ci si trova. Sicuramente gli orari di lavoro sono intensi nella stagione estiva, soprattutto per alcune mansioni, il cuoco, il cameriere, sicuramente la fanno da padrone. Non si arriva mai ovviamente alle 18 ore. Esatto, di lavoro, infatti oggi, volevo dire tra le 8 e le 18 ci sono delle, esatto, delle vie di mezzo sane, ecco. Ovviamente parliamo del lavoro lecito, non entriamo nel merito di attività, no, ovviamente no, che non sono consentite dalla legge già all'origine, quindi non andiamo a parlare di quante ore fanno fare. Senta Ferrario, ma allora visto che oggi è il 26 giugno, giusto? C'è ancora tempo per candidarsi, insomma le aziende, lei prima ci ha fatto l'elenco di tutte le professionalità che ancora le strutture per cui intermediate le richieste, c'è ancora tempo per candidarsi, quindi c'è ancora molto, ci sono ancora molte posizioni vacanti. Sì, le posizioni in questo momento aperte sul nostro sito sono circa un centinaio e lo saranno ancora, nel senso che anche quando verranno trovate le persone adatte o le persone troveranno la struttura adatta a loro, poi ci sarà un naturale ricambio, nel senso che queste sono attività che non sempre poi vengono portate a termine, quindi di nuovo ci sarà il bisogno di qualche sostituto. Certo, un'ultima considerazione volevo farla con Laura Piccolo, perché andando a scandagliare le offerte disponibili appunto attraverso Open Job Metis, c'è a parte tutto un ragionamento da fare, ma magari ce lo teniamo da parte per un'altra puntata, dottoressa Piccolo, nel settore agroalimentare, che in questo momento è il nostro grande fiore all'occhiello, dove c'è grande vivacità. Ma un altro tema invece molto delicato è quello del supporto che richiedono le famiglie in cerca di assistenti familiari e operatori sociosanitari per i propri familiari, per gli anziani appunto in famiglia. Questo in realtà è un problema che c'è tutto l'anno, perché voi lo enfatizzate soprattutto in questo momento? Lo enfatizziamo in questo momento perché la nostra divisione, che si occupa proprio di questo, la divisione Family Care, ci segnala un'esigenza esponenziale in questo periodo, perché la badante, l'assistente domiciliare, chi si prende cura dei nostri cari durante l'anno ha spesso famiglia, spesso straniera, e quindi rientra nella propria casa, in famiglia appunto, e quindi ha necessità di essere sostituita per il periodo estivo. E soprattutto le famiglie hanno a loro volta, dopo un anno di lavoro, magari necessità di staccare la spina per qualche settimana. Quindi urge ancora più del solito la necessità di avere qualcuno di cui fidarsi che possa prendersi cura dei nostri cari. Ecco, in questo caso magari le competenze non attengono esattamente alle lingue, però ce ne sono altre molto importanti magari da avere. Assolutamente, allora innanzitutto c'è una competenza proprio tecnica, no? Poi dipende dal tipo di necessità proprio di assistenza medica, specialistica, necessita il badato, però sicuramente non parliamo di persone senza esperienza, ma persone con esperienza specifica in questo ruolo, magari con qualche nozione infermieristica, persone che se sono operatori sociosanitari abbiano proprio una certificazione, perché c'è un attestato da conseguire per poter svolgere questa mansione. E poi c'è l'aspetto più importante, l'aspetto relazionale, bisogna essere persone empatiche, capaci di stare a contatto con la sofferenza delle persone e portando poi tranquillità alla famiglia. Esatto. Quindi, questo diciamo è molto delicato. Non questo, esce, esce un po' fuori diciamo dal contesto dei lavoretti stagionali ed estivi. Sì, detto questo, sì, però sì, insomma anche l'estate può essere un momento buono per potersi così per poter intraprendere una professione di questo tipo, magari farla diventare appunto la professione stabile della propria esistenza. Allora, fra un paio di minuti noi ci salutiamo. Chi ma posso abbiamo sentire? Tantissimi sì, ascoltatori sì, che allora ringraziamo all'800240024, vedendoci chiamano. Hanno visto le cosce. No, no, a parte gli scherzi. Remo da Pisa, benvenuto. Buongiorno, vi seguo moltissimo anche perché sono fisso da voi in macchina. Ah. Il problema della ricerca personale estivo, a mio avviso, una parte dipende dalla poca volontà di molti di noi a fare quel tipo di lavoro, perché ci può portare lontano, poi lavoriamo e non abbiamo il tempo di divertirci, è breve e pertanto alcune cose, alcune specializzazioni non le approfondiamo, perché tanto poi dice 2 mesi, 3 mesi, 1 mese e così avanti, perché altrimenti avremmo giovani, penso, con competenze largamente secondo quelle richieste dagli operatori turistici. Ho capito, Remo, volevo sentire Paolo Ferrario su questo. È un tipo di mestiere quello del quale parliamo questa mattina che può ricadere sotto la come dire, definizione generale di lavoro stagionale, nei confronti del quale ancora c'è un po' di pregiudizio, non si ritiene oggi possa diventare quello stabile della propria vita, magari facendo una prima esperienza, viene ancora un po' associato troppo al tema dello stagionale, lavoretto per l'universitario. Ferrario: no, quello direi di no, nel senso che comunque le opportunità poi diventano quasi sempre stabili, nel senso che la platea degli alberghi e dei ristoranti che sono alla continua ricerca sono quelli delle grandi città, quindi dove diciamo così la ricettività alberghiera e la ristorazione di lusso funzionano sempre. È sempre stata un settore trainante per la nostra economia e lo sta diventando sempre di più. Dall'altra parte sicuramente il fatto che è un lavoro tra virgolette scomodo, così come altri, che si lavora quando gli altri si divertono, un po' è negativo. Lo so, ce ne sono tanti, adesso io lo so che posso rischiare di apparire impopolare, ma anche i giornalisti, quelli che stanno a Radio 24 lavorano 365 giorni all'anno, si va naturalmente poi di turnazione, è chiaro, però c'è chi lavora il 1° maggio, a Ferragosto, chi fa dei turni dalle 6 del mattino, altri che chiudono invece a mezzanotte. Io andrò in ferie fra un mesetto circa, ma poi il 20 agosto sono di nuovo qua per l'ultima parte del mese, per cui in realtà ogni mestiere, pensiamo agli infermieri, no Nicoletta, ci sono tante professionalità che garantiscono la loro prestazione d'opera senza badare ovviamente alle stagioni, quindi insomma viviamo quest'epoca, per queste professioni ovviamente non è questione di epoca, sono sempre state così. Allora, dottoressa Piccolo, l'ultimo messaggio da parte sua, 30 secondi per i lavoratori all'ascolto che sono ancora a caccia di opportunità, anche per quello che vi riguarda c'è ancora tempo per candidarsi? Assolutamente sì, basta andare sul nostro sito che è www.openjobmetis.it, nelle offerte di lavoro troveranno tutto quello che abbiamo pubblicizzato in questi giorni, rimarranno queste posizioni aperte praticamente per tutta l'estate. Perfetto. Quindi candidati. Openjobmetis e poi segnalo anche eWork Ferrario, lo ridiamo anche il vostro sito? Sì certo, www.i-workspa.it. Benissimo, e fateci sapere, magari questo lo chiedo agli ascoltatori, se le vostre richieste sono andate a buon fine, se grazie anche all'ascolto di questa trasmissione avete trovato una buona opportunità. Sì, c'era anche questo giovane che voleva intervenire raccontandoci che è un produttore di audiovisivi, è una professionalità un po' particolare che gli dicono, andando per strutture balneari a proporre appunto la sua, il suo mestiere, che è troppo qualificato. Alessandro, perseveri e magari le andrà bene. Ci fermiamo, c'è la borsa e torniamo subitissimo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Cuore e denari. Il vento caldo dell'estate. Beh, ha un po' mollato il caldo, un pochino almeno al nord ha mollato la presa, comunque tornerà presto a farsi sentire, d'altronde il suo momento. Parliamo del caldo con cui volenti o nolenti dobbiamo fare i conti e dovremmo farlo ancora per un po', e allora per attrezzarci, per affrontarlo nel modo giusto, senza perdere la testa, ci facciamo aiutare oggi da un grande amico di Cuore Denari, ma soprattutto un grande professionista, un grande medico, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno e grazie per un'introduzione così gentile. Professore, allora diamo una piccola anticipazione di ciò di cui ci occuperemo, perché, come anticipato, scopriremo gli effetti del caldo sul sistema nervoso. Lei è un neurologo e quindi ci occuperemo in modo particolare del nostro cervello. E quindi la cosa diventa abbastanza interessante, perché questa sorta di centralina governa pensieri, governazioni ed emozioni, e quindi questo ci darà modo, sono certa, aiutata anche dagli interventi dei nostri ascoltatori che possono seguirci anche in diretta Facebook e quindi scriverci anche lì dei messaggi, ci permetterà di affrontare tanti aspetti, ma anche e soprattutto di occuparci di tanti piccoli disturbi per distinguere quelli innocenti da quelli più seri. E soprattutto oggi, con l'aiuto del professor Piero Barbanti, impareremo a proteggerci dal caldo in modo efficace usando, professor Barbanti, la testa, perché con un neurologo questo impariamo a fare. Professore. Sì, è vero, dobbiamo ricordare che grande caldo in questi giorni, per dirla tutta, vuol dire anche enorme umidità, e non possiamo stupirci che questa influenzi negativamente il cervello, che è l'organo più elettrico dell'organismo. Le cariche elettrostatiche ci modificano profondamente. Ma vorrei proporre così a chi ci ascolta un po' un paradosso: ma perché il caldo ci dà così tanto fastidio, invece quando siamo in vacanza ci stiamo a crogiolare al sole, studiamo, giochiamo ai racchettoni, chi riesce Guardi. A farlo, che fare sport? C'è un motivo anche a questo. Allora, professore, intanto riproviamo a metterci in contatto con lei, perché la sentiamo un po' gracchiante, ma invece vogliamo sentirla forte e chiaro. Intanto che dalla regia richiamano il professor Barbanti, quindi qua ce l'ha buttata. Adesso, quando dobbiamo lavorare, nonostante molti di noi lavorino in uffici o in zone, in negozi che sono con l'aria condizionata, ci lamentiamo. Poi d'estate, naturalmente, quando siamo in vacanza, il caldo ci piace, perché ce lo gestiamo tutto in un altro modo. Assolutamente. Allora, intanto diretta Facebook, quindi mandateci i vostri messaggi, ma anche potete mandarci dei vostri messaggi, anche delle immagini che in qualche modo possono refrigerarci. Devo dire che noi qua stiamo abbastanza bene, perché l'aria condizionata anche che è troppa. Noi ci lamentiamo perché 800 24 00 24. Professor Barbanti, ecco qua, ho inondato un po' di parole i nostri ascoltatori in attesa del ripristino del collegamento. Siamo qua. Eccomi qua, si sente meglio? Sì, forte e chiaro. Allora, anche professore, se da un cellulare adesso. Vede, non è detto, non è sempre il fisso quello che ci piace. Siamo un po' così bizzarre. Professore, io ho rilanciato la sua sfida, perché poi quando siamo in vacanza il caldo ci piace, e quando lavoriamo o siamo così nella nostra quotidianità è un lamento continuo. Professor Barbanti. Beh, intanto noi dovremmo anche sviluppare il tema in tre maniere, cioè quello che succede con il caldo nei soggetti sani. Sì. Quello che succede nei soggetti con acciacchi, pensiamo semplicemente chi soffre un po' di insonnia, chi soffre di mal di testa, e quello che succede con il caldo nei soggetti che hanno disturbi veri e propri, penso a chi sta al telefono e ha magari parenti anziani che sono affetti da demenza, o magari soggetti col Parkinson, o chi ci ascolti e magari ha la sclerosi multipla, la cui estate senza dubbio non è la stagione alleata, oppure semplicemente chi soffre di ansia. Insomma, vorremmo un po' declinare l'effetto variabile del caldo, che tra l'altro cade in una stagione bellissima sotto il profilo psicologico, anche per via del fotoperiodo, cioè della grande quantità di ore di luce, perché in realtà succedono cose molto strane, a volte contraddittorie, perché le sostanze che il nostro cervello produce, le sostanze chimiche, neurotrofiche, le sostanze neurotrasmettitori, hanno dei picchi piuttosto strani. Vediamo se magari con qualche telefonata, certo, quindi volta per volta dipanare il problema. Quindi ce n'è un po' per tutti, teste sì, calde, teste vuote, teste che in qualche modo, no, sembrano piene di pensieri, si affollano, ci sono tanti modi di dire che raccontano come e in che modo il caldo influisca sul nostro cervello. D'altronde, professor Barbanti, quando si dice che il cervello è surriscaldato e fuso, va addirittura in fumo, non promette niente di buono. È sicuro questo, ma intanto cominciamo a dire una cosa: chi di noi sta dormendo bene in queste notti? È abbastanza difficile. Noi per dormire dobbiamo raffreddare il nostro corpo, entra il pilota automatico notturno, il sistema nervoso parasimpatico, e la temperatura corporea si abbassa. D'inverno consigliamo di tenere la stanza più fresca, ed ecco che uno dei primi problemi di questi giorni è il fatto di non avere sonni profondi e riposanti. Un secondo effetto è quello sulla concentrazione che ne deriva, perché se non ho riposato bene durante il giorno, durante la notte, durante il giorno mi porterò l'onda lunga di questo disturbo del sonno e quindi sarò deconcentrato. E quindi ecco come, pur non essendo malati di nulla, giornate di caldo protratte, le ondate di caldo, perché non è senza dubbio il singolo giorno a creare problemi, possa mettere a dura prova la centralina elettrica di tutti noi. Se poi hai anche il mal di testa, senza dubbio questo può peggiorare. Ma in realtà caldo è un concorso di colpe, perché insomma quando noi abbiamo caldo compaiono 4-5 cose per noi poco favorevoli. Una vasodilatazione, e se siamo ipertesi, vabbè, buttiamo via la pillolina. Parliamo di pressione proprio domani, guardi, ho toccato un perché molti ascoltatori ci hanno già scritto tra i vantaggi sotto i piedi. Certo, per chi ha la pressione bassa E quindi l'ipotensione a volte può fare dire delle sincopi, abbiamo magari degli accessi negli ospedali, nei pronto soccorsi, di gente che si alza, ha visto nero, è caduta per terra, questo è un effetto del caldo. Ma un altro effetto del caldo evidentissimo è la sudorazione, quindi la disidratazione, e questo provoca nei nostri anziani molti problemi. Ma l'acqua se ne va via assieme a dei sali, e quindi l'efficienza neuromuscolare, la nostra efficienza neuromuscolare, al di là dei crampi, proprio la forza, l'energia, la vitalità può calare. E poi, siccome l'organismo, il sistema nervoso ama lo status quo, fa un enorme spreco energetico per remare contro questo gradiente termico sfavorevole e spreca anche tanta energia, e ci sentiamo quindi stanchi mentalmente e ci sentiamo stanchi dal punto di vista anche fisico. Allora, intanto abbiamo in linea con noi Icilio da Ravenna. Buongiorno Icilio. Pronto? Pronto, a caldo, Icilio non ci parla. Professor, pronto? Eccolo, dove è andato? Si era rinfrescato un po', Icilio? No, buongiorno, mi scuso. No. Mi sentite? Noi la sentiamo bene, grazie Icilio. Lei ha caldo oppure lo regge bene? No, io sto benissimo. Anch'io, al caldo rifiorisco. Preferisco il caldo al freddo, però volevo chiedere una cosa al professore. Se... per una persona che soffre il caldo, lo stare parecchio tempo in un clima caldo possa scatenare una forma di depressione. Grazie Cilio, la domanda è molto bella. Professor Barbanti, l'ha anticipato sì, quando ha detto che avremmo così preso in rassegna tante situazioni, il signor Rossi o la Nicola, Debora del caso, che con il caldo convivono bene, ma anche persone che hanno soffrono di alcuni disagi o a cui hanno una sorta di predisposizione verso alcune condizioni o hanno ricevuto diagnosi di malattie anche neurodegenerative. Professore, che relazione c'è tra caldo e depressione? Se c'è. Allora, tecnicamente parlando, la stagione in cui c'è il caldo, cioè l'estate, è una stagione antidepressiva perché aumenta il sole, l'ora di luce, certo. E quindi la serotonina ha, assieme alla melatonina, ma insomma noi guardiamo la serotonina, una maggiore produzione. Il problema è cosa c'è alla base. Il caldo vissuto in condizione ostile, non favorevole, mi spiego, se sono a Marina di Ravenna, dove probabilmente andrà al mare il signor Icilio, del caldo non ti importa granché, che anche lì con un amico stai passeggiando e così via, ma inteso come perturbazione della giornata, del quotidiano, in un soggetto che abbia qualche carico pendente emozionale, una situazione al limite per stress familiari, lavorativi, per predisposizione biologica, è la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi che il caldo causi la depressione in sé la risposta è no, ma che il caldo rappresenti la goccia che fa traboccare il vaso quando ti arriva dove non vuoi, e cioè nella tua città, non certo quando sei in vacanza, e quindi non lo tolleri, la risposta è sì. Allora, adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Parleremo poi del nostro signor Rossi, che in questo momento se ne sta passeggiando per fare magari delle commissioni per lavoro in una strada metropolitana, ma parleremo anche del signor Bianchi, che è in macchina, naturalmente più al fresco, ma dovrà poi scendere dalla sua macchina e quindi fare i conti con la caldazza, che cosa sta capitando, e soprattutto chiederemo al professor Barbanti. Se ci troviamo a così dover assistere oppure dare una mano ad una persona che sviene, così noi diciamo, per il caldo, dove la mettiamo? Che cosa facciamo? Le gambe si tirano su, si tirano giù, si prende la pezzuola fresca, oltre naturalmente a chiamare subito i soccorsi. 800 24 00 24, noi ritorniamo subito dopo le informazioni del traffico insieme al professor Barbanti e al nostro caldo. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo, perché ho le mani per prenderla mentre che rotola. Volete raccontarci come reagite al caldo? Se vi dà la testa, se insorgono alcuni disturbi, se altri si acquiscono, chiamateci, siamo pronti a raccogliere i vostri anche consigli anticaldo. Sono sicuri che ne avete di buoni, ma mi piacerebbe anche ascoltare le storie di chi al caldo rinasce, diventa un'altra persona. Può succedere. 800 24 00 24 il nostro numero verde. Abbiamo già Elio che è in linea con noi da Vicenza, ma soprattutto il professor Piero Barbanti. Indaghiamo gli effetti del caldo sulla nostra centralina, sul nostro cervello e sul sistema nervoso. Elio, buongiorno da Vicenza. Buongiorno a lei. Io ho 63 anni, soffro di ipertensione da una quindicina d'anni e anche di fibrillazione atriale. Io succede che con questi caldi vado fuori completamente di testa, non riesco a gestire il caldo, sudo tantissimo durante il giorno, poi entro dagli uffici pubblici con l'aria condizionata, salgo in macchina con questi caldi torridi. Vede, lei è il nostro signor Bianchi e il nostro signor Rossi. Io prima delle informazioni sul traffico li ho presi tutti e due in due situazioni diverse, ma lei in una prende tutti e due i casi. Quindi Elio il caldo lo soffre e il professor Barbanti è pronto per dare anche, non solamente per spiegare perché ci sono delle persone che sudano ad esempio così tanto, hanno degli effetti così fastidiosi del caldo, ma soprattutto suggerire anche delle soluzioni. Naturalmente non entreremo nel merito, ci ha detto il nostro amico Elio che soffre di fibrillazione atriale, è iperteso, tra l'altro di ipertensione parleremo domani. Ma professor Barbanti, la parola al neurologo. Intanto c'è una possibile spiegazione, signor Elio. Prenderà dei farmaci per la pressione e quando c'è il caldo i farmaci della pressione trovano un farmaco in più, che è proprio il caldo. Però un elemento, per esempio, così abbastanza bizzarro e rincurante, è dimostrato scientificamente che il rischio di ictus emorragico cala durante il periodo caldo. E questo è abbastanza implicito perché una vasodilatazione contrasta con l'ipertensione, che è una delle cause principali di ictus emorragico. E poi diamo un'altra buona notizia, prendendo spunto da quello che dice Elio, cioè sono stati fatti degli studi molto sofisticati sulle capacità di attenzione sostenuta. Cioè, e questo pensiamo ai nostri studenti che in questo momento, ci metto anche del mio, c'è un figlio, sta facendo l'esame di maturità. Ebbene, cuore di papà, eccolo lì che viene fuori. Speriamo allora, che si concentri, che abbia tanto caldo allora. Ecco, questo è importante. È stato dimostrato scientificamente che la capacità di attenzione sostenuta è massima nel solstizio d'estate. E quindi 21 giugno e comunque in questo periodo caldo a parte sembra paradossale, da un lato diciamo non ce la facciamo più, ma dall'altro studi neuropsicologici alla mano si dimostrano che i task, i compiti di attenzione sostenuta, cioè di stare sul pezzo, riescono bene. Quando i nostri figli e i nostri amici si lamentano fa tanto caldo, noi possiamo dire però sei più attento. E in questa stagione dell'anno così si dimostra. Allora, abbiamo Angela da Roma, ma intanto anticipo che chiederemo al professor Barbanti di darci dei consigli anticaldo, quelli naturalmente alimentare. La nostra dieta necessariamente cambia, ma anche non è solamente il buon senso, è proprio la richiesta del nostro corpo, richiede dei cibi più leggeri, più freschi, però proprio per ripararci dal caldo, dagli effetti del caldo, inconsapevolmente commettiamo magari degli errori che poi si pagano. Intanto Angela, buongiorno, benvenuta. Buongiorno professore, senta, a me mi è capitata una cosa strana. Io dopo aver mangiato un gelato con la panna, io so che la panna un po' mi fa male, però io generalmente non la mangio mai. Comunque mi è venuta, dopo aver purtroppo vomitato, un'amnesia totale parziale. Dipende dal caldo, dipende cosa vuoi, perché mai avuto questi e lei l'ha legato al gelato alla panna? Io l'ho legato a quello, è possibile? Sospettato è il gelato alla panna. Professor Barbanti? Allora, la signora Angela ha avuto un episodio, con tutta l'approssimazione telefonica, molto tipico per un neurologo e molto benigno. Si chiama amnesia globale transitoria. È che il blackout, nome? La caduta del collegamento audio, che non vuol dire che è morto, si spera, l'intervistato, e riprende dopo un po'. È un blackout della memoria che spesso ha delle cause scatenanti emotive, nella maggior parte dei casi però non si trova la causa. Certamente se il periodo estivo in cui la mangiata di gelato si colloca è stato un periodo snervante, perché era prima delle ferie, prima delle vacanze, questo può essere un elemento. Un piccolo puntino però a proposito di ciò che la signora Angela non ha, cioè problemi veri di memoria. Chi ha problemi veri di memoria, cioè soggetti con Alzheimer, tendono a peggiorare in questo periodo, non solo perché c'è la disidratazione e magari non la riferiscono bene, ma anche perché le neurotrofine, cioè queste sostanze che condiscono i neuroni e li fanno crescere rigogliosi, hanno il loro picco in autunno, e quindi diciamo, per chi ha veri problemi di memoria, ripeto, non per la signora Angela, ancora il periodo estivo, bello per l'umore, non è però favorevole. Quindi il gelato alla panna non c'entra. È condonato. E a proposito di gelato, beh certo, un bel gelato ce lo mangiamo volentieri quando fa caldo, una granita, gelato alla frutta, un sorbetto. Professor Barbanti, lei ha scritto un bellissimo libro di cui abbiamo parlato tante volte, sulla relazione proprio tra quello che mangiamo e la salute del nostro cervello. Siamo in estate, quali sono, il buon senso ci suggerisce, certo non viene in mente di mangiare la cassola o la polenta no? con concia, non c'è bisogno di un neurologo per farcelo dire, ma sicuramente il nostro cervello, che è impegnato a tenere un po' sotto controllo no? le sferzate del caldo, magari gradirebbe, professor Barbanti, allora, se andasse al ristorante che cosa ordinerebbe? Cominciamo a cercare un locale fresco con l'aria condizionata. Adesso diciamola tutta, l'aria condizionata è veramente considerata il male, origine di tutti i mali. Non è vero, tutti gli ambienti medici sono freschi, le sale operatorie sono gelide. Non rischiamo, cioè rischiare il mal di gola è il minore dei mali, specialmente per le nostre persone magari anziane con problemi neurologici, ma il cervello deve essere intanto refrigerato, punto primo. Punto alimenti, allora cerchiamo di prendere pochi caffè, per quale motivo? Il caffè è un diuretico piuttosto potente, caffè e tè, e quindi se io rischio di disidratarmi i caffè li riduco. Cerchiamo di abolire l'alcol, o comunque di ridurlo, perché l'alcol è un altro notissimo diuretico. Ricorriamo alla iperidratazione. Ci sono milioni di giovani italiani in condizione di ipoidratazione, lo dicono alcuni studi di popolazione. Figuriamoci, gli anziani sono tutti disidratati. Quindi pensiamo che il bere debba diventare un nostro mestiere, cioè beviamo anche senza sete. Ricordiamoci che c'è un'idratazione indiretta, quella con la frutta e con le verdure. E poi, forse questo è uno dei periodi dell'anno in cui i benamati integratori, che ci piacciono tanto anche nel periodo invernale, possono servire. Evitiamo ovviamente sostanze indirettamente vasodilatatrici, come tutti i cibi speziati, perché se io mi vasodilato abbasso la pressione, do una mano all'effetto del caldo e al cervello, che si ruba il 20% dell'ossigeno circolante il 15% di agitata cardiaca, se non arriva il sangue alla pressione giusta e ben nutrito, lui non funziona bene. A proposito, abbiamo anticipato, il caldo può far girare la testa al punto da far perdere l'equilibrio. Non a caso, no? Si dice un caldo da svenire. Chi sviene pensa a un calo di pressione, di cui, come abbiamo anticipato, parleremo domani. Ma insomma, qualche cosa che dipenda, il dubbio che dipenda da qualche cosa che arriva dal regista, quello nella cabina in alto, ci viene. Professor Barbanti, se capita a noi, che cosa fare? Se capita ad una persona che soccorriamo per strada, ad un collega, che si fa? Allora, intanto, se dobbiamo intervistare uno che ha perso conoscenza, chiediamogli se se n'è accorto, perché se si è accorto che stava perdendo conoscenza, è stata una sincope, cioè uno svenimento, preceduta dalla lipotimia, quindi non è una crisi epilettica, è una condizione di ipotensione. Semplicemente mettiamolo all'ombra, alziamogli le gambe. In questo momento faremo arrivare così più sangue al cervello. Quando si riprenderà, facciamolo bere molto, lasciamo stare i caffè forti, diamogli l'acqua, sì, e idratiamolo molto. Sull'equilibrio, se posso dire una cosa in 15 secondi, attenzione ancora per chi ha soggetti con il Parkinson, perché ancora stagionalità. Si dimostra che d'estate la produzione di dopamina nei soggetti col Parkinson, questo è stato dimostrato con studi piuttosto celebri, cala del 15% rispetto all'autunno. Motivo in più per tenere i nostri soggetti, o per chi ne sia affetto, al fresco, ben idratati, ben nutriti. Grazie professore, abbiamo ancora Marco da Venezia, giusto un minutino. Buongiorno Marco. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Velocissimo, io che adoro il caldo, sono una lucertola e per me la luce è tutto. Quando poi finisce l'estate, a settembre, ottobre, io vado in depressione. Perché? Si è dato un po' la risposta da solo Gianmarco, che già noi già che abita a Venezia, quindi è già un bel fortunello. Professor Barbanti, Marco ha già individuato la ragione in parte. Lui ha un disturbo depressivo che ha una sigla internazionale SAD, che vuol dire disturbo affettivo stagionale. È molto semplice, la luce agisce su una parte fondamentale, un grande regista del cervello, che è l'ipotalamo, e l'ipotalamo è un'interfaccia tra i sistemi delle emozioni e i nostri visceri. Bene, l'ipotalamo viene stimolato dalla luce e come tale interagisce con le emozioni. In alcuni soggetti questa interazione dipende in maniera particolare dal grado di illuminazione diurna, e nei paesi del nord Europa si ricorre alla fototerapia, mettendo soggetti in stanze illuminate con oltre 10.000 lux. Quindi è un qualcosa che conosciamo e che in casi specifici deve essere trattato anche in senso preventivo, però è una situazione, tra virgolette, da manuale. Professor Barbanti, possiamo dire a Marco di continuare a sentire Cuore Denari, perché noi lo accompagniamo e non potremo essere la sua luce, però insomma anche quando le ore di luce diminuiranno ci saremo sempre Deborah ed io a tenerle compagnia. Professor Barbanti, grazie. Lei il caldo lo soffre o è venuto a patti? Da morire. Vivrei in un igloo. Grazie professor Barbanti, lo dico anche a lei, il nostro mental coach per tutti i ragazzi che stanno facendo ancora gli esami di maturità. Sulle pagine di Cuore Denari mette i suoi consigli e si rende disponibile a rispondere alle vostre domande e alle vostre richieste d'aiuto, quindi scrivete. Grazie al professor Barbanti, salutiamo anche Carmelo oggi che abbiamo questi 30 secondi. Non lo so se lo merita il salutino delle donne di Certo, dai, guardalo lì che diventa già un po' rossetto. Allora, noi torniamo domani. Torniamo domani, senz'altro. Grazie. Buona giornata.